Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Prendo il microfono in un'occasione del tutto particolare, cercando per quanto è possibile di dare un contributo a questa giornata che in sé, almeno dal mio punto di vista, presenta un forte paradosso. Mentre i colleghi del giornale radio stanno raccogliendo, presto vi daranno tutte le informazioni a tempo reale di quello che si riesce a sapere in questo momento rispetto a questi ultimi movimenti sismici, io faccio una riflessione che dovrebbe istigare il pubblico a chiamarmi il più possibile. Questa mattina mi servono persone che chiamino non per raccontare le loro storie, ma raccontare quello che hanno attorno a loro. Perché il paradosso è proprio questo: c'è una parte d'Italia che è irraggiungibile. Sembra paradossale, sembra assurdo, in un momento in cui noi possiamo arrivare a qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo soltanto mandando un tweet. Beh, ci sono alcune zone dell'Italia centrale di cui in questo momento non abbiamo nessuna notizia. Perché? Perché i telefoni cellulari, quando sono scarichi, se non c'è la corrente elettrica, non si caricano. E quando i treni sono bloccati, quando i mezzi di trasporto sono bloccati, quando le persone sono seppellite nella neve, non riusciamo a sapere quello che sta accadendo in alcune parti d'Italia. Abbiamo provato a chiamare persone, amici che si trovano in Abruzzo, si trovano nel Lazio, si trovano nelle zone adiacenti al sisma. È difficilissimo, si sentono rumori strani, cade la linea, non c'è linea assolutamente. L'altra parte del paradosso: mentre l'Italia colpita più sia dal sisma sia dalle intemperanze atmosferiche, in questo momento è isolata, si trova esattamente come sarebbero trovati 3 secoli fa, fuori dal mondo, completamente fuori dal mondo. Non c'è corrente, c'è la neve, sta piovendo e le vie di comunicazione sono interrotte. I telefoni cellulari hanno un'autonomia. Finita l'autonomia della batteria del telefono cellulare, le persone non sanno più come mettersi in contatto con il mondo. Quindi 800240024, che avesse possibilità di darci qualche informazione di quello che sta accadendo. Siamo qui speranzosi di poter aggiungere qualche elemento rispetto alle poche cose che già si sanno. L'altro volto del paradosso: il terremoto si allarga dall'Italia centrale anche alla città di Roma, la capitale d'Italia. Che sta succedendo a Roma? A Roma c'è gente per strada, negli uffici, nelle banche e nei luoghi frequentati da popolazioni. Improvvisamente in alcuni posti è scoppiato il panico. Perché? Perché la terra trema, la gente vuole scappare, ma se lasciano chiusi i tornelli la gente si accalca di fronte ai tornelli. Quindi il paradosso: abbiamo una congestione nel centro politico, economico, direttivo dell'Italia e un totale isolamento nella parte d'Italia più colpita dal sisma. 800240024, attendiamo che ci raccontate quello che state vedendo. Voi sarete oggi i nostri inviati. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Allora, la conferma di quanto sto dicendo adesso è che tutte le persone che stiamo cercando di contattare in questo momento non sono contattabili. Le sentiamo, le avvertiamo, riusciamo a iniziare la telefonata, poi la telefonata si interrompe. Questo significa che c'è un problema concreto, un problema reale, un problema di comunicazione. Con le stesse zone dove sabato io sono passato, perché c'erano persone che sciavano, sembravano il centro dell'attenzione e della possibilità di incontrare persone, in questo momento sono isolate. Ho con me in studio Raffaella Calandra, che mi aiuterà in questa diretta. Raffaella intanto ci dà subito un aggiornamento di quello che perlomeno riesce a trapelare dall'agenzia e quello che lei ha potuto verificare chiamando personalmente la gente che ha conosciuto durante i suoi reportage in zona di terremoto. Raffaella. Sì Gianluca, in realtà sembra non finire, diciamo, i problemi di questa zona, perché in questo momento, pochi istanti fa, il sindaco di Ussita mi confermava con voce molto allarmata che avevano appena ricevuto anche un allarme valanghe per la loro zona. Quindi siamo nella zona che era stata già colpita dal terremoto anche di fine ottobre, quindi i problemi del terremoto, quindi dei crolli, delle evacuazioni, della neve, adesso si aggiunge un problema valanghe, e avevano questa voce appunto esasperata da queste emergenze continue. In questo istante poi avvengono anche una serie di evacuazioni anche in diverse zone dell'Abruzzo, in uffici, anche in uffici pubblici, prefetture, anche in uno stabilimento molto Finmeccanica, ci sono state delle evacuazioni, leggiamo che sono stati evacuati ad esempio è stato evacuato lo stabilimento Leonardo della ex Finmeccanica, poi a Pescara ancora gli uffici della giunta regionale, uffici della provincia, quindi uffici pubblici, quindi anche in zone diciamo un po' diverse rispetto a quelle colpite già dai terremoti, questo perché, come abbiamo già raccontato, è una faglia diversa. Questo però significa che col problema della neve potrebbe essere ancora più complesso raggiungere questi centri e quindi prestare soccorso alle persone che sono in difficoltà. Allora, per dare il senso al pubblico quello che sta accadendo, quanto tempo fa l'hai sentito il sindaco te al telefono? Pochi minuti? Prima di entrare in studio. Adesso è raggiungibile, stiamo cercandolo al telefono, è raggiungibile, per far capire che la situazione è esattamente questa. Ho detto che c'è un doppio livello di lettura di questa ondata di singolare attenzione di tipo atmosferico, diciamo, nell'Italia centrale. Anche a Roma, è una città che in questo momento sta vivendo un momento abbastanza di tensione. Abbiamo a Roma Giorgio Staratopoulos, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo, io in questo momento mi trovo nel cortile di una scuola media nel quartiere Appio Latino della capitale, la Grazia dell'Edda, e i ragazzi sono tutti nel cortile già da un paio d'ore, insomma dalla prima scossa che proprio loro hanno sentito in classe avvertendo gli insegnanti, il corpo docente. Quindi adesso diciamo quello che sta andando è un'evacuazione alla spicciolata, si aspettano i genitori, come sottolineavi da studio, grande difficoltà a contattare ovviamente le famiglie, chi è al lavoro, chi è in giro per altre cose, quindi insomma qui la cosa si preannuncia lunga, anche se insomma l'iniziale paura poi è stata completamente sostituita dall'euforia dei ragazzi, per i quali insomma, come ben sapete, ogni occasione per variare alla routine diventa un momento così di gioco. Ma dicevamo, a Roma appunto è su iniziativa dei singoli istituti in realtà che si è proceduto, diciamo così, a questa operazione, ovvero sia non c'è stata una triangolazione con il Ministero, con il provveditorato, sono le singole scuole che hanno preso questa iniziativa per via appunto in via precauzionale di evacuare prima le classi e poi man mano di decidere di rimandarli a casa. Prima, ovviamente i genitori che non si presenteranno vedranno poi i figli tornare a casa. Quindi diciamo è un normale. Termo all'otto, chi sta a casa non sa se il figlio è per strada o sta a scuola o nel cortile, via dicendo. Rassicuro gli ascoltatori, mi dicono ma tu non sei a Roma, no, oggi casualmente mi trovo a Milano, un giorno che accade qualcosa a Roma mi trovo a Milano. Raffaella, abbiamo finalmente raggiunto finalmente il sindaco di Ustica. Sì, finalmente io approfitterei di questa convergenza positiva delle linee telefoniche. Abbiamo in linea con noi in diretta il sindaco di Ustica, Marco Rinaldi, buongiorno. Buongiorno. Ecco sindaco, lei poco fa ci aveva annunciato, prima che anche le agenzie lo battessero, di questo allarme valanghe che avete ricevuto. Certo, abbiamo ricevuto dalla Protezione Civile della Regione Marche l'allarme valanghe. Noi abbiamo dei siti valanghivi e quindi è ovvio che con il carico di neve che c'è ci possa essere l'allarme valanghe. E stavamo appunto facendo il punto, ma le scosse di questa mattina, ecco, le avete sentite ovviamente tutti in modo molto forte, avete già il quadro di eventuali altri di crolli? No, non è possibile sotto questo, noi abbiamo in valle qui al capoluogo affinata a 730 metri, abbiamo 1,20 m di neve e non è possibile fare la verifica puntuale, sarebbe anche rischioso e sarebbe imprudente. Sindaco, in questo momento in tutte le vostre zone un'emergenza particolare soprattutto per allevatori, per le persone che sono dovute necessariamente restare in quelle zone per continuare a gestire le loro attività e che in questo momento molte delle quali risultano anche isolate. Avete qualche contatto? Avete un'idea di quante persone possono esserci? No, l'abbiamo puntualmente sotto controllo la situazione. Abbiamo gli allevatori che sappiamo dove sono, parliamo, che anche l'allevatore che stava a Casali ieri sera è sceso, l'abbiamo fatto scendere e ha dormito delocalizzato, adesso c'è da raggiungere Casali per dar da mangiare agli animali, perché poi gli animali stanno nella stalla ma alla fine vogliono mangiare. Ci sono strade che sono isolate? E certo, quella di Casali, ma non vi rendete conto cosa vuol dire combattere con 1,20 m a fondo valle, vuol dire che sente il rumore di spazzaneve qui alle spalle, vuol dire che a Casali avremo sicuramente 2 m di neve. Ma l'allarme, oltre a questo qui, io devo lanciare un allarme grossissimo sulla viabilità che ci collega i comuni di Ussita, Davisto e Castel Sant'Angelo sul Nera, al resto del mondo, cioè alla strada statale 209, che con la chiusura della Valmerina è l'unica strada che ci porta verso il collegamento viario, è in condizioni pietose, a senso unico si viaggia, ci vuole un impegno maggiore dell'ANAS. Eravamo stati allertati, avvertiti puntualmente dalla Protezione Civile, e la viabilità sta facendo un flop. La superstrada da Tolentino al Bivio Maddalena è impraticabile. Io ho il mio SUV, viaggio, ma non tutti hanno il SUV, tutte le ambulanze devono poter passare. L'ANAS deve affrontare questa situazione di emergenza con una risposta immediata di emergenza, è già troppo tardi. Prendo un attimo. Sta alzando il vento, se con la bufera ci chiude il valico di Appennino, lì ci vuole un passaggio continuo degli spazzaneve. Mi arriva adesso, ti leggo per far capire, poi per bilanciare la situazione, mi arriva su WhatsApp un messaggio, dice: a Roma c'è il caos per riprendere i bambini a scuola, tutti stanno andando a prendere i bambini a scuola, i ministeri sono svuotati, sono tutti per strada. Abbiamo penso dall'Aquila, Dario Verzulli, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Facci un punto, Dario Verzulli lo conosciamo, si occupa di ragazzi disabili, ma in particolare oggi ci dà una testimonianza di quello che sta accadendo tra le persone che dalle zone terremotate sono andate, diciamo, a trovare un alloggio nelle casette che erano state preparate e allestite per i primi terremotati dell'Aquila, che adesso devono cercare un contatto con i loro parenti, e questo sembra impossibile. Sì, la difficoltà è più grave, è proprio l'impossibilità di comunicare sia con i mezzi telefonino rete, ma anche di poterli raggiungere. Noi viviamo all'Aquila e i vicini di casa hanno parenti e famiglie proprio nell'area epicentrale di queste tre scosse, sono tutti molto in ansia, non hanno nessun tipo di comunicazione, tra l'altro non c'è nessuna possibilità di raggiungerli, perché da quelle parti c'è oltre un metro di neve. In che zona esattamente, Dario, hanno i parenti? Per capire. Allora, Carpignano e Montereale, che sono stati proprio gli epicentri di queste scosse superiori al quinto grado. Ed è la zona appena a sud rispetto alla zona di Amatrice. Quindi è sempre la stessa faglia, è sempre la stessa zona che si muove e che sta creando questa... Quindi cercano di avere notizie dei parenti, al telefono non rispondono, e andarci naturalmente seguendo la viabilità che è interrotta è impossibile. Abbiamo Raffaella Calandra, Damiano che rappresenta Coldiretti di Amatrice. Sì, è ad Amatrice, aveva anche lavorato, sentito la nostra collega Laura Bettini, e quindi può darci il quadro nel paese diventato simbolo, diciamo, della prima scossa di agosto, di che cosa sia succedendo in queste ore ad Amatrice, dove abbiamo già detto ci sono stati altri crolli, è crollato definitivamente il campanile, ma soprattutto per quanto riguarda l'emergenza degli allevatori, che è forse in questo momento tra quelle più serie. Buongiorno. Salve. Allora, lei si trova ad Amatrice in questo momento, giusto? Sì, praticamente la situazione è molto drammatica, nel senso, ora al primo posto ci sono le persone, sono tornate le persone come all'inizio, ma e di conseguenza anche tutti gli animali, tutte le persone che sono rimaste per lo più sono allevatori. In pratica continuano ad arrivarmi segnalazioni e telefonate di persone in lacrime che non riescono neanche a uscire da casa per arrivare alla stalla. Alcuni sono scesi dalle finestre, altri mi chiedono di chiamare i vigili del fuoco e segnalare queste situazioni. Situazioni molto gravi si trovano in frazione, per esempio, di frazione Terracino di Accumoli, lì vicino, dove i vigili del fuoco già ieri hanno fatto un tentativo di raggiungere un allevatore e non ci sono riusciti, e oggi faranno il secondo tentativo. In pratica lì gli animali non mangiano da due giorni. E per quanto riguarda invece le persone isolate? Sì, ne ho tante, ne ho tantissime segnalazioni di persone che mi chiamano in lacrime perché non riescono proprio a uscire di casa. Quindi con tutte queste scosse, immaginate di non riuscire neanche a uscire all'aperto. Quindi persone che si trovano nelle loro case o comunque provvisorie, quindi dopo le evacuazioni anche delle scosse di fine agosto o comunque che sono rimaste per accudire loro gli animali, che in questo momento sono isolati, non riescono ad uscire, non ci sono strade che li mettono in collegamento. Sappiamo anche di blackout elettrici, per cui soprattutto il problema si ripropone anche per le persone più anziane, che chiaramente hanno anche un altro tipo di reazioni a queste emergenze, mentre in questo momento a proposito del problema dei collegamenti, di cui prima anche il sindaco di Ussita ci lanciava un forte allarme, leggiamo che è stato interrotto anche il traffico ferroviario interno a Civitanova Marche, Albacina, Ascoli e Porto d'Ascoli per effettuare alcune verifiche sulle tratte ferroviarie, quanto fa sapere Trenitalia. Ma soprattutto in questo momento c'è un treno regionale che è rimasto bloccato nella stazione di San Ginesio, e dal momento che è impossibile mandare proprio per la neve autobus sostitutivi, si sta cercando di soccorrere le persone che sono a bordo di questo treno, e che quindi saranno fermi in mezzo alla neve anche con la paura del terremoto. Questo è il quadro, Gianluca. Stiamo per dare la linea, ci sono i soliti furboni che da casa loro, nel caldo di casa loro al sicuro, mi scrivono: ma non è il primo anno che nevica, la state esagerando. Non è che soltanto nevica in una zona in cui c'è stato un terremoto, in cui le persone sono state evacuate, in cui le strade sono state disastrate, in cui in questo momento non c'è l'energia elettrica e quindi non posso nemmeno telefonare. Prima di fare commenti così ovvi magari uno ci pensi 5 minuti. 800 24 00 24, lasciamo la linea, la riprendiamo tra un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, stiamo in studio con Raffaella Calanda, stiamo cercando di, per quanto possibile, ricostruire quello che sta accadendo in un momento di particolare difficoltà, un momento in cui una parte d'Italia, oltre che essere scossa dal terremoto, è anche fisicamente isolata per la neve, per il maltempo, per l'impossibilità di essere raggiunti attraverso le vie di comunicazione. Abbiamo un ascoltatore in linea, ho chiesto di chiamare all'800 24 00 24, chiunque avesse possibilità di colmare questa sorta di lacuna informativa data dal fatto che poi le persone non rispondono al telefono, i telefoni non funzionano, non c'è corrente elettrica, non c'è rete elettrica, è difficilissimo anche soltanto riuscire a cogliere quello che sta accadendo. Abbiamo Roberto da Chieti, buongiorno. Roberto. Buongiorno, Rieti. Da Rieti, sì. Sì. Qui abbiamo sentito molto violentemente. Quindi sei vicino, scosse, all'epicentro, vicino a Matrice. Sì, abbiamo sentito forti le scosse ripetute, poi mai successo così vicine. Nell'arco di mezz'ora ne abbiamo sentite 5, molto forti. E in città cosa è successo? Rete città? In città niente, tutti fuori, il traffico impazzito, tutti siamo usciti dagli uffici, dalle scuole. Chi vuole raggiungere la famiglia, chi sta andando a riprendere i bambini, insomma è un momento di panico. Quindi generale, la città di Rieti è bloccata, non c'era un piano diciamo preordinato di emergenza nel caso potesse accadere qualcosa di simile? Sì, ci sono i vigili che smaltiscono un po' il traffico, ma al di là di quello è stata una sorpresa per tutti. Poi si è associato anche a una bufera di vento fortissima, cioè faceva le scosse e c'era una fortissima bufera di vento, quindi fortissimo vento insieme alle scosse, è stato abbastanza impressionante. Ecco, grazie comunque, Roberto. La situazione dimmi. È criticissima, insomma, la situazione è sotto controllo. Però, ecco, Rete è una città, Rieti, sì. Grazie a Dio avete ancora la rete elettrica che funziona e i contatti, i collegamenti che funzionano. Amatrice, anche se non è molto lontana, c'è di mezzo tanta neve e tante strade interrotte, questo è il problema. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Salve, sono io, sì, buongiorno. Sì. Io ho parlato con vivo a Milano, mio fratello vive a sud di Chieti, gli ho parlato 5 minuti fa. Sì. Vi posso dare alcune, vi posso dare anche il suo cellulare perché ci racconti quello che l'ha detto suo fratello intanto. Allora, loro hanno circa un metro e mezzo di neve e hanno molta difficoltà in qualsiasi movimentazione, nessuno ha corrente da 2 giorni e quindi gli tocca scaldarsi con i camini, con la legna, e non possono usare le auto perché le strade sono bloccate. Per quanto riguarda i cellulari, la sua proposta è che chi ha il cellulare e la macchina può mettere in moto la macchina anche se è ferma e caricare il cellulare, in modo tale da avere un punto di collegamento, è quello che ha fatto lui. Ecco, mi sta facendo vedere adesso Raffaella Calando, un'agenzia che dà il senso a quello che sta accadendo. Esattamente. Quindi hanno sentito a Montereale, in provincia dell'Aquila, la gente sta scavando nella neve per scappare per paura delle nuove scosse. Raffaella. Sì, perché appunto si è bloccati in casa dalla neve, e questo già sta succedendo da giorni, perché la neve è molto alta. Le scosse però in una zona così fortemente ferita dal terremoto creano il panico innanzitutto, come ovunque, e quindi sono isolati, stanno cercando anche di scavare anche con i mezzi, diciamo, di fortuna. Non è che ci siano, diciamo, questi grandi sistemi appunto per togliere la neve, per uscire dalle case, per in qualche modo mettersi al riparo e salvarsi dal rischio di eventuali crolli che ci sono stati anche in diverse zone dell'epicentro aquilano. Allora, poco fa abbiamo anche raggiunto ad Avezzano, dovremmo avere, no, ancora no, è ricaduta la linea, appunto a conferma della difficoltà di queste comunicazioni. Abbiamo invece una persona che ci, Giuseppe, giusto? Che sì. Ci chiama da Chieti, sì, che ci stava raccontando appunto della difficoltà del fratello. Quindi una situazione simile a quella che abbiamo registrato dalle agenzie a Montereale, cioè la neve alta, quindi anche lui è impossibilitato a muoversi. Non possono usare nessun veicolo se non andare a piedi e spalare con le pale, però questa idea di caricare i cellulari dalla macchina ferma messa in moto è intelligente, perché almeno si può comunicare. Io posso dare anche in diretta il suo cellulare, chiunque vuole. Non lo dia in diretta, no, adesso, no. Lo dà il nostro collega che lo prenderà senz'altro. Abbiamo un aggiornamento da Roma, Teresa Trillò. Sì, ciao Gianluca, buongiorno. Ora qui la situazione sembra normalizzata. Questa mattina tra le 10:30 e le 11, quando ci sono state le scosse, la gente era un po' spaventata, molta gente è scesa in strada, anche molte scuole sono state evacuate, molti genitori sono stati chiamati dalle scuole dei bambini più piccini e sono andati a prenderli, perché ci sono anche dei bambini che si sono spaventati perché la scossa si è sentita benissimo, le scosse si sono sentite benissimo, si sono sentite molto bene anche nella nostra redazione qui a Roma, ci sono le scrivanie si sono mosse, quindi si è percepita molto bene. Quindi la redazione è diciamo in zona Stazione Termini, quindi per far capire a chi ascolta. Sì, noi siamo in centro, in zona Stazione Termini, e qui si è sentita bene la scossa. Qui intorno, anche su Via del Corso, nelle zone più centrali, tutte le persone in strada, fuori dai negozi. Anche a Prati, le persone erano per strada, erano uscite dai palazzi. Abbiamo Enrico dall'Aquila. Enrico. Sì, buongiorno. Volevo dire che quello che c'è da rilevare in questo momento, secondo me, è che è vero che si è verificata un po' la tempesta perfetta, dove ci sono tutte le condizioni sfavorevoli concomitanti. Se qualcuno dice mancano solo le cavallette, poi c'è tutto. Ecco, nel 2009 l'abbiamo avute anche quelle. Però qua si paga soprattutto, secondo me, la mancanza di allenamento a queste cose. Cioè noi non facciamo esercitazioni, benché ci siano i piani di protezione civile su carta nei comuni, esercitazioni non se ne fanno, quindi le persone non sono abituate a pensare a ciò che devono predisporre per far fronte a queste situazioni. Però mi fa pensare un attimo, lei chiama dall'Aquila, è qualche annetto che da quelle parti c'è un'emergenza comunque. Appunto, questo è emblematico, penso, no? Non ci sono punti di raccolta, persone attrezzate. Cioè, chiaramente ci sia una situazione di panico, di traffico per il terremoto, quando sì. È praticamente attaccata alla zona dell'epicentro degli ultimi tempi. Fermo un attimo, Enrico, resti in linea. C'è il sindaco di Acquasanta Terme. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei, com'è la situazione da voi? Lei ha segnalato il problema di diversi anziani che sono isolati con blackout elettrici. Blackout elettrici, con blackout quindi in automatico di cellulari, non c'è la possibilità di comunicare, perché spesso la rete va e viene, e purtroppo, ecco, abbiamo queste frazioni isolate. Poi sono arrivate anche le scosse, quindi tante persone adesso sono anche nel panico, perché stanno rivivendo delle situazioni già viste purtroppo negli altri terremoti. Quindi abbiamo bisogno di pulire il più possibile le strade, ma la situazione è veramente difficile, perché noi come piccole realtà non abbiamo le potenzialità per intervenire in un'emergenza dove, le dico, ci sono delle frazioni con 2 metri di neve. Sindaco, quindi in questo momento per voi come priorità quello che servono dei mezzi per poter liberare le strade e quindi in qualche modo raggiungere le persone isolate? Turbine, pale gommate, camion e ruspe che caricano anche la neve, perché poi in alcune zone strette purtroppo le macchine non possono neanche muoversi, non si può uscire se succede qualcosa. Quindi abbiamo bisogno proprio di un intervento imponente, perché abbiamo 50 frazioni, quindi 50 frazioni, 200 km di strade interne, più l'evento sismico. Mi diceva adesso una signora che mi ha chiamato che la mamma a seguito del sisma non si è sentita tanto bene, la strada lì è bloccata perché ci sono clavine, quindi rischiamo tanto, tanto, tanto. Che soprattutto per le persone più anziane la componente anche legittima della paura, del panico e dei malori, sì, in qualche modo aggravi il tutto. Sì, ma poi anche quelli più giovani comunque si riversano lungo le strade e diventa difficile gestire tutto. Sindaco, serve secondo lei che in questo momento intervenga l'esercito nelle vostre zone per poter accelerare la liberazione delle strade? Ma l'esercito è fondamentale. So che stanno per arrivare, non so se arriva primo pomeriggio, 30 spalatori, ma servono i mezzi. Già questo va bene, però ecco, servono molti più interventi. 30 spalatori cosa significa? 30 persone? 30 persone. Con le pale a mano, questa è la soluzione. Non mi sembra tanto, comunque, onestamente. Cioè 30 volontari con la pala in spalla. Meglio niente è, però, perché visto che adesso ci troviamo così. Ma non c'erano già in zona, sindaco, dei mezzi adeguati? Ammesso non ci fosse stato il terremoto oggi, la situazione sarebbe stata ugualmente critica? Sì, sarebbe stata ugualmente critica. Quindi comunque anche in zone dove, diciamo, nevica anche abbastanza di frequente, però appunto c'è una situazione di difficoltà, di isolamento, che chiaramente col terremoto diventa tutto più complicato. No, ma poi 2 metri di neve in 48 ore, anche in queste zone dove noi siamo abituati, non sono normali. Nel frattempo le agenzie ci registrano anche la presenza di crolli, non sappiamo ancora di che entità e in quali edifici, nei comuni di Campotosto, Laringo e Poggio Cancelli, ossia siamo nell'Aquilano, nei dintorni di Monte Reale, come di cui parlavamo anche poco fa, quindi anche questa zona, quindi verso l'Aquilano, dove ci sono stati dei crolli, e quindi bisogna anche capire che tipo di entità di questi crolli, e appunto ci riferiscono che la terra batte in continuazione, la gente ha paura. A Monte Reale non si registrano però fortunatamente danni a persone. Noi ci fermiamo soltanto un istante, riprendiamo tra poco, sempre 800 24 00 24. È preziosissimo il contributo di chi può, come gli ascoltatori poco fa, darci un contributo, raccontarci qualcosa che in questo momento non abbiamo altri strumenti per sapere. A fra poco. Melog, cronache meridiane. Ci sono gli ascoltatori che, non potendo dare testimonianza diretta tramite le persone che conoscono, che hanno sentito, i parenti, danno consigli. Con tanta neve devono togliere la neve dai tetti perché rischiano di crollare. Sono sempre consigli dati a distanza, in cui è facile. Sandro dice che a Roma stanno evacuando anche le scuole romane, sembra che anche questo sia un problema, però sempre relativo rispetto a quello che vediamo. Abbiamo Carmen, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono qui ad Avezzano, vivo ad Avezzano, e abbiamo avuto 3 scosse ripetute di forte intensità. L'ultima è stata quella che poi ci ha convinto a lasciare casa malgrado la neve e a recarci al Master Point. La fortuna è stata che insomma da ieri qui sono cominciate delle precipitazioni nevose abbondanti, e per fortuna insomma le scuole della Massica sono state insomma chiuse, quindi i bambini erano a casa. Quindi con Avezzano noi. Lei però mi sta dicendo che esiste un piano perlomeno di emergenza? Assolutamente sì, noi sappiamo qual è il nostro Master Point, e insomma anche se le strade insomma non sono, la viabilità è garantita, però c'è comunque tanta neve anche qua, comunque abbiamo raggiunto il Master Point. Diciamo che la situazione. E cosa accade? Ci spiega cosa accade a un Master Point? Per capire. Ci siamo ritrovati lì, veramente non eravamo tantissimi, però ci siamo ritrovati in questo spazio aperto che per noi è davanti alla chiesa, uno spazio aperto. Una zona sicura dove macchina, non c'è niente che possa cadere. Una zona sicura, lontano da edifici, insomma, dove diciamo metterci al riparo. Ecco, ma chi dà queste istruzioni? Una volta arrivati al Master Point, cosa si fa? Aspettiamo. aspettiamo, aspettiamo. E, insomma, poi visto che comunque continua a nevicare, ci siamo determinati a ritornare in casa perché comunque fa freddo, abbiamo i bambini piccoli, e, però stiamo valutando, almeno noi, l'idea di scegliere altre soluzioni, insomma. E quale potrebbe essere la soluzione in questo caso? Noi siamo originari di Napoli, quindi io ho la valigia pronta, in tutta sincerità, condizioni meteo permettendo, stiamo valutando l'idea di passare un weekend lungo a Napoli. E secondo lei questa idea è passata a molte persone? Tra quelle che io lei credo sente. Di sì, perché sulle chat del WhatsApp è un tantam continuo, insomma adesso hanno scritto che gli uffici pubblici qui sono, c'è stata l'ordinanza del prefetto, sono stati chiusi, il tribunale è stato evacuato, insomma voglio dire, tre scosse una dietro l'altra in una zona altamente sismica segnata poi dal ricordo del terremoto dell'Aquila, insomma, anche del terremoto di Avezzano dormire. Avezzano è stata casa al suolo del 15, del 15 sì, è scomparsa, ma Avezzano. Quello dell'Aquila ce lo ricordiamo, l'abbiamo vissuto in maniera diretta, quindi insomma non si dimenticano, anzi si coinvive con una paura che è difficile poi gestire, insomma. Mi viene a pensare, resti lì Raffaella, però sì. Esiste un problema secondo me, riflettiamo su questo: se nelle chat, su WhatsApp, nei gruppi tutti dicono pigliamo la valigia, allontaniamoci, andiamo, congestionano le strade, questo forse non è la cosa più adatta in questo momento. Anzi, è quello che in genere anche Protezione Civile cerca di evitare, cioè le comunicazioni che in queste situazioni si mandano sono proprio quelle di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, proprio perché la viabilità, l'abbiamo sentito, è quella che è precaria, soprattutto in alcune zone. Ci sono i mezzi di soccorso che in qualche modo devono attivarsi per cercare di raggiungere le aree più in difficoltà e più isolate, e quindi il rischio che in qualche modo si congestionino alcune strade esiste. Dall'altra parte, io ho incontrato tantissime persone nelle zone colpite dai terremoti che come prima reazione dicono almeno per ora vogliamo andare via, cioè c'è quella componente emotiva a cui bisogna comunque anche diciamo che bisogna in qualche modo anche soddisfare e rassicurare, quindi sono in tanti che vogliono andare via, e io credo che queste scosse in una situazione già così precaria di un territorio così fortemente colpito con la neve possono in qualche modo anche scoraggiare quanti fino adesso si erano così tanto diciamo anche ostinati a voler restare a pochi metri dalle loro case distrutte nelle ultime scosse. Mi riferisco soprattutto alla zona della, diciamo, tra Marche e Umbria. Ecco, abbiamo Matteo necessariamente si è messo per strada invece perché da Roma sta andando a cercare di soccorrere la madre. Matteo, buongiorno. Sì, dove buongiorno. Sei? Dove ti trovi? Io attualmente all'Aquila sulla A24 sto tentando di raggiungere l'Abruzzo. L'ingresso attualmente è chiusa, non si può. Io da Roma però, essendo già entrato, mi trovo sull'autostrada. Fin dove sei arrivato da Roma? Su quale pezzo dell'autostrada? Io attualmente sto all'Aquila, ecco. Ah, sei arrivato? Verso... Sì. Ma sì, sei già uscito dall'autostrada? No, perché io devo uscire a Teramo perché mia madre... Ah, quindi prosegue oltre l'Aquila, prosegue. Per forza, perché comunque la situazione peggiore, inverosimilmente, è anche lì, cioè nelle zone costiere. E tua madre cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto tua madre? Che sta disperata perché comunque sono due giorni ormai che sta senza elettricità e... ci sta un metro di neve, non può uscire di casa a causa di tutta questa neve che c'è. Voi immaginate quel terremoto che si sente veramente forte in quelle zone. Le persone sono disperate, cioè non si sa come... La prima cosa che uno fa quando c'è sta tutta quest'acqua è uscire di casa. E non si può perché ci sta la neve e non si può. Comunque, Matteo e Raffaella che è qui accanto a me, mi sembra che l'area... diciamo dell'emergenza, non tanto l'area toccata dalla scossa di cui ancora non sappiamo quali sono i danni reali, ma l'area toccata da questa emergenza data da mancanza di comunicazione, freddo, isolamento è abbastanza vasta. Partiamo da Roma, dove c'è una situazione comunque di disagio, arrivando fino a tutte le parti dell'Abruzzo, fino al Teramano. Sì, è un'area con problemi diversi e con difficoltà diverse, però quella dell'isolamento che avevamo raccontato anche nei giorni scorsi a proposito della neve, soltanto a questo punto viene da dire della neve, è di sicuro molto molto ampia. E in questo momento abbiamo in collegamento con noi il sindaco di Arquata del Tronto. Sindaco, Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Allora, rientrate anche voi in quest'area di sicuro, diciamo, colpita da questa situazione di doppio disagio, di doppie difficoltà che stiamo raccontando, il freddo, la neve, il terremoto. Com'è la situazione tra di voi? Allora, la problematica di Arquata del Tronto è un po' diversa in questo senso, che io già da tempo ho evacuato tutto il comune per le scosse, perché dopo le scosse del 24 del, agosto, del 26 e del 30 praticamente tutti i borghi del mio comune sono inagibili, per cui gli abitanti stanno alla costa o in città. Il problema è per gli agricoltori che vanno su con permessi speciali a dar da mangiare, eccetera. Però ecco, in questo momento le risultano dei crolli oppure le risultano delle persone che sono isolate in questo momento? Allora, io ho dei familiari che mi dicono che col telefonino in una frazione che è Colle di Arquata non hanno contatti e sono quelli che vanno a dare a mangiare alle bestie. Io ho avvertito sia i vigili del fuoco che la guardia forestale che è sul posto con i mezzi di cercare di raggiungerli, perché su si parla di 2 metri di neve, non è che i disagi sono pochi. Quindi per insomma la situazione scosse, di famiglie isolate. Sì, insomma diciamo che non sono proprio, sono dei pastori che o degli agricoltori che vanno, dovrebbero andare al mattino e ritornare la sera nelle, o in albergo dove stanno. Sindaco, la interrompo perché diciamo lascio il testimone a Simone Spezia che prende il microfono dopo di noi. Continueremo a raccontare per quanto possibile a tempo reale quello che sta accadendo in un posto dove è interrotta ogni forma di comunicazione e collegamento. A tra poco.